negli anni che è uscita erano tutti un fitantenna arancione. E Bruno, siccome è un vecchio Cimini, vecchia data, se l'ha tenuta e ha fatto bene, esce veramente bene. Sempre quella è Bruno. Sì, non potete sbagliare, ma se fa non so se tu ti ricordi Vincenzo del Fino Bianco, Fortunato Alfetta che modulavano la Porto Torres, Corsaro Nero, Gavino Balzano, tutta quella gente lì avevano quell'antenna lì, avevano la Colibri nella macchina, ci mettevano a ballare la domenica, ma senti i collegamenti che faziani, allucinanti. Perché c'era il figlio dei pescherici, dai, andavamo là a giocare gli apparecchi. Vabbè, dove sei andato? No, non c'è Gianni, no, Gianni al telefono. Avanti, Massimiliano, riprendi. Sì, vabbè, positivo, sono ripassato qua, va. Passa il gubbo, Avanti, California. Ehi, papà, adesso voglio provare l'altra radio, dai, non mi ascoltate. Sì, ma lo barofa non l'ha mai dato ancora, però. Ah, te l'ho preso. Kappa positivo. Vabbè, dai. Va bene. Ma no, meglio mi ascolti con questo. La radio non sto confondendo, so che tu lo sai. Ah, aspetta, però ce l'ho troppo vicino al microfono, guarda un po'. Se ti stacchi un pochino va ancora meglio. Sono con la dopo braccio. No, la radio è buona, non è che, però ma è troppo forte, capito? Ah, è troppo forte la radio. Perché io la ripasso tutto un braccio. Forte, Massimiliano, forte, bella forte, corposa. Un'altra gubba dall'altra, va bene. A Gianluca Flipper che fine ha fatto? Attento, Flipper! Guarda un pochino, l'ho abbassata, appena appena. Va bene, lo stesso, ma io la preferisco come la prima. Bruno, la tua è meglio così, l'ho abbassata. Allora poi mi commenti, vabbè. Oh, che sa fare buono tutta manetta e pini lo grudito. Con l'unghia. E ogni tanto sotto, Massimiliano, sotto, fai andare quel tastino che c'è, ticchi ticchi ticchi ticchi, ogni tanto muove quello che... Quel microfono c'era del vizio, c'era che si inceppa di sempre. L'altro giorno cazzo, ho detto, ma non ha più picchi di modulazione sta radio, ha parito il processore inserito, tutto inserito, ha detto, ma lo fumo c'è farà. Poi mi sono ricordato nel 60, lo sollevo, ho mosso, tic tic tic, pum, ha cominciato a cudi forti. Ah, nel 60 dice, quello di sotto. Quello ogni tanto muovelo, perché... C'ha quel difetto lì, quel microfono, ha rotto le scatole. E adesso l'ho mosso, va. Già va bene. E quindi Bruno, la boomerang te l'hai presa? Perché c'è uno di Portotose che la sta vendendo nuova, è 25 euro, se ti interessa. Perché la Fusaro costa di più, No, ma poi Fusaro non è arrivato, no, è una vecchia antennina, una specie di prefabbricato, no? Stato fatto così, non si metto sotto, è una precisata di una cosa. Sì, a me mi serve, io non ho detto qualcosa, se lo comprava lo sono fatto dentro. No, questa è nuova, la sta vendendo 25 euro. Se la vuoi glielo dico, se l'hai ordinata aspetta, se non arriva dimmelo. Cosa arriva? Se due mesi devo fare un po' di culo, ma non è che ci sono più, ma che vada a far culo. Aspetta, ma se io la cosa non ho detto. Sto aspettando per fare l'ordine quando sono anche altri. Ma se allora ti vai di culo e dare via? Sempre così infatti, sempre così. E fa sempre così, capito? Io gli avevo ordinato una matassa di H1000, il H1000 barriera rivendita da New York, che è già troppo vicino. Alla fine mi sono stufato, gli ho telefonato, ho detto, non ne ordinare più. No, non ne ho ordinato ancora, sto aspettando a fare un ordine. Ciao, te ne dire. In 7 giorni mi è arrivata la matassa a casa da 100 metri. Ma infatti io sono andato lì per entrare a questo punto. Invece c'era la grande, io ho tirato la piccola perché non ho fatto, non sono so giovane. Mi sa però l'ho detto anche a Gianni, se ti interessa c'è un CB di Polottose che l'aveva comprata e poi non l'ha piazzata, quindi la sta vendendo. Avanti Franco California, facci sentire questa radio, io facci sognare. Bene bene, questa è C80, un po' più bassa dell'altra, comunque la radio è buonissima. Avanti Massimiliano. Io come radio preferivo l'altra, la ascoltavo meglio. Il segnale qua sta arrivando 1-2, non di più. Come fa la 7-8 qua? No, la si è già bassa, la accesa adesso sta dando pochi watt sicuramente. Allora sì, va bene. Ma tu che conosci per sapere che cosa ando io? Ma mi ti la fa un po' migliore di questo, sto trovando. Ma sono andato alla difficile per finire. Comunque mi interessa l'antenna, se riesci a farmela avere in qualche modo e ti dico lasciare. Ma è che baracchino stai usando, Bru, l'HB23? No, sto usando una tarifa che non ha portato la vista. E cosa c'è, l'attacco a 4 con la ghiera? Senza ghiera, non entri 4 a 4 e poi avviti, non è così? No, aspetta, c'è la stanza. Ah, di quello che si inserisce come il pony, dai, quello con a 4 punte. Quello devi arrangiarti tu, fra. O glielo modifichi, le fai il maschio e la femmina a 4, allora è più fattibile trovare un microfono da palmo preamplificato, ma così è un casino. Sto cercando di... sto andando a studiare i garage anche, perché sicuramente il 5024 sono andato da lì, perché io sono il 5024, ma te la vedo, ma io non lo faccio niente, sicuramente non ha più garage là, perché io da me non ho fatto niente, come capire chi sono, gli altri sono in realtà. già lo so, ma Aldo c'ha il garage lì dove ce l'aveva fattore. Ehi, allora c'è i Chivis a radio, perché aveva fatto un suo palchetto ed erano lì del radio. Li avevo viste io una volta che era vivo ancora attore, quindi sicuramente ancora lì. Allora guarda, ti annuncio già che Sandro si è venduto tutto. Guarda, non aspettavo, avevo paura di andare, perché adesso quando c'è quella cosa è stato così, tutto quanto sono precattivo, dentro le scatole. E io ti dico la verità, il problema della sorella qui, guarda, io sono riuscito, c'era amicizia che avevo con Tori, io vivevo non di notte ma tutto il santo giorno con Tori. Sono riuscito ad avere, proprio perché mi sono incazzato, un portatilino, proprio come ricordo, un portatilino che usavamo uno io, uno lui, la domenica, e ce lo portavamo quando andavamo ai rally per sentirci eccetera. L'unica cosa che mi è rimasto la banana è Tori, il resto si è venduto tutto, Sandro, come te l'ha venduta voi non te lo dico, a chi se no ti incazzi, proprio ha dato tutto, capito? Bastava consultare le persone che avevano veramente la voglia di tenere qualche ricordo di Tore, invece ci ha venduto tutto, ha posto tutto, dritto la cascetta e ha venduto tutto, così. Alla Pascolo Bravo, guarda, lascia perdere Bruno. Avanti Massimiliano. Ehi, acqua, un secondino che devo scendere, io che prendo subito. Ehi, ehi, va bene. Avanti Franco. Beh, è normale, lo sai, sia 80 è come 140, più scalda, più poi si stabilizza. Lo sai cosa devi fare tu, no? Quando è caldo, una volta si accende la ventola, le metti la potenza giusta e lasci stare così, e non si muoverà lì. Quando è fredda, poi arriva quella a cui vatte si blocca, non sale di più, perché sennò sta sempre salendo, salendo, salendo. Devi regolarla una volta a caldo. Io ho fatto sempre così con 140 e non c'è problema, non lo tocco mai, capito Bru? È una cosa allucinante, subizzino, è una cosa allucinante. Cosa gli ha fatto passare al povero Tore, cazzo, guarda, se mi ricordo mi viene il malumore. Allora, lo sai cosa ho io? Comunque faccio una radietta, siccome un giorno fanno una radio ancora a casa, prima di settimana. Poi la tua radio è così. Adesso tanto cosa che mi sto dicendo, non andate, no? Io faccio tutte le radiette, sono radiette un po' più forti, mi distanno. E mi ha detto, senti quello, io giuro, se ti sta malato, fammi su, una cosa che... Ma malato, questa radio, io comunque faccio una radio di più, almeno un mese, io giuro. E invece... una specie di radio, è una specie di distributore, perché ho visto che ha presente un UHF, ha tante cose, poi c'ha questo parere di dice no, è tutto un tipo, è un piatto, è una cosa continua. E quindi c'è una persona, c'è una persona, non so, tu mi dici da farlo o tu no, in questo modo, non ho fatto batterie, io non ho le batterie. E... non riesco a farlo andare su quella frequenza. Come funziona solo in FM, così. Però deve essere una parecchietta che lui già usava per l'ascolto, di certe frequenza, di bande. Non lo sapevo, l'altro giorno l'ho visto, ma sono d'accordo. Ma invece, vedevo che funziona. Se dovevo trovare giù. Ascolta, ma il veicolare è praticamente come un baracchino o è portatile? No, no, piccolo, ma è tutto come un radio. Non è una radio, un qualcosa del genere. Adesso mi sono andato a casa, devo essere attiva, perché poi sono andato a vedere anche su internet, lo capisco. E se si legge la sigla, lo capisco, ma dico subito che cosa è. Sicuramente è un vittore, sono piccolo, non è piccolo. Eia, eia, eia, mia Gianni ha smesso il telefono. Ehi, ce l'ho anche io uno così ed era il suo, ne avevamo una coppia per uno, capito? Ne avevamo due, ne avevamo lui e uno io. Io sono uscito, ma perché ti ripeto, dopo, vabbè che lui era morto eccetera, sono andato a casa sua, mi aveva chiamato la figlia proprio per sistemare queste cosettine e Sandro Savia io ha venduto tutto, tutto venduto. E c'erano questi portatilini, l'ho detto, dammi quel portatile immediatamente. E me l'ha dato, e ce l'ho. Ce l'ho. L'unica cosa che ho di Tore è il portatile VHF UHF. Ce l'avevamo uguale, capito? Quindi può darsi pure che sia uguale a quello che ho io, non lo so. Devi darmi la sigla e poi ti dico se è quello lì. Avanti già. Sì, dai, dai. State parlando di Tore. Vabbè. Io mi l'altro giorno sono andato al cimitero e sono passato a trovarlo, a lui e anche a suo fratello. E che sono trovato? Non so se sono dell'oculo, non so se lo so. Guarda, è successa una cosa sola al cimitero. Allora, sopra c'è Tore, sotto c'è mio fratello, a fianco c'è il cognato di Tore. Poi appena appena più su c'è mio suocero, la sua sorella, mio cognato, la sua cognato di mia moglie, e sono un sacco di gente, tutta la famiglia si è accappata, tutti gli occhi attaccati. Già, c'erano i fiori. Io qui fa. Già. Ehi. C'erano i fiori. Non ci ho fatto caso. Ho fatto una preghierina, mi sono fermato avanti perché dovevo fare tutto il cimitero. Ma penso, mi sa di sì che c'erano. Perché li ho messi io da poco. Siamo a inizio febbraio, io a metà gennaio ci sono andato, al cimitero da mie suocere, sono passato lì al chioschetto, ho preso un po' di fiori anche per lui e li ho messi. Dove mi è mancato, cazzo, le domeniche che ho passato allucinante con lui, con la buona mia Bacchisio, poverino, anche Bacchisio se n'è andato, scendevamo lì in campagna ad Antonio Caledo a Sant'Ossola, per carità, belle domeniche veramente, domenica mattina eravamo sempre in pari, a volte Bacchisio veniva, a volte no, però con Tore non c'era domenica che uscivamo, e poi andavamo a Relli a vedere i Relli, di tutto e di più l'abbiamo combinato, per carità. Tu immaginati, Bruno, che io ho preso il caffè con Tore 2 giorni prima, lì al bar al Caracas, su al Monte. E mi ha detto, lo sai, non sto bene, tutto, fatti controllare, cazzo, anche la pressione, sei sempre incazzato, sempre nervoso, rilassati, cerca di stare più sereno, più tranquillo. Ma io ho i miei problemi qui e là, sì, i problemi mi dai, però la dassa non la dai, le macchinette non le dai, mi sono incazzato il giorno. 2 giorni dopo mi chiama Sandro, papà è morto. Ma io la verità, diciamo che qualcuno era, avrebbe potuto portare un conto, però la vita non è che non è stata così, diciamo, non è che non è stato così, non so, però io il giorno mi sono adirato perché ho detto, cazzo, stai male, tu non stai bene, però capito, sei sempre a tazzita in mano, capito, poi era sempre nervoso, sempre incazzato, un sacco di cose, guarda, allucinante, infatti un infarto. Quando sono andato io l'avevano già tolto da dentro la doccia, ero già vestito, sono andato io con Michele alla sera tardi verso le 8 e lui era già andato, e vabbè, poverino, avevo vestito di chi, avanti già. Sì, aveva messo il suo carattere che era un po' nervoso. Io mi ricordo una volta quando guidavo il tram, questo qui ha suonato 2 volte, lui ha tirato il freno a mano, ha detto se non esce fuori che ha suonato 2 volte non parlo di fatto. E ho detto io, ma aveva il dito, adesso sulla cavanata dici tu, staccare. Preso, Ehi, Massimiliano, dove per l'età che aveva doveva dare lei, a chi era stravaganti, ci tarri via la bizza alla faccia, anche perché era un omone, quindi, però era una persona che veramente in gamba, a me mi è mancato tantissimo, perché passavo proprio, aspettavo, io lavoravo tutta la settimana, aspettavo la domenica mattina, ci sentivamo già dal sabato sera, domenica mattina, allora, a casa noi che scendiamo da Torio, ci facciamo un po' di frutta, ci beviamo qualcosa, va bene, già passo io a prenderti, oppure andavo da lui e poi andavamo con la macchina sua, erano sempre tutti le domeniche, pure andavamo a Scalapiccara, sempre, ero sempre con Torio. Avanti Massimiliano. Ehi, a positivo, no, io non l'ho conosciuto, quindi non so neanche di cosa si ti fa vedere, no. Comunque. Vittore alla verde. No, io, claro, non l'ho conosciuto io, là. Gappa gappa. Avanti, già. Sì, io mi ricordo che andavo questa con la maiala sempre, quelli piccola, lì si trovavano tutti, molte volte li ho visti. Si trovavano con gli amici tutti lì. Dove? Dico la testa con una variata. Ehi, è un raggio d'oro. E se la mamma vinto due cicchette di vino. Poi Torre di Cionfro, non c'è da fare. Quando avevamo a Relli e portavamo poco di cose, Viscio Maria Gara. E vabbè, bei tempi, dai, poverino, uso questi voti. Massimiliano, cosa stai usando? Il Cobra? Positivo. microfono normale, là. Bella radio, bella radio. Ah, io Gianni, chi c'ho serpente? Che serpente? Ah, Gianni c'ho quel disegno, chi c'ho serpente, tu cobra. Ah, che lui sta usando quello? Non lo so, il cobra stai usando già. Sto usando il coso, l'intec che staziona il basso. Ah, quello con le luci blu. Ma è bassa la modulazione già. Mi piace più l'altra. Sì, ma ogni tanto è bello farlo girare. Dai, lo faccio girare tutti. Piano piano li facciamo girare tutti. Io tutte le mattine li metto a testa a terra, li giro, già va bene. Ma no, me ne ha fatti nulla. Ieri stavo modulando col Midland, l'altro giorno con l'Inuit, col Poli, poi basta. Da quando va giù Gilton sono tutti spenti, anche il 140 è sempre spento. Oramai Gilton è la mia preferita, vai Bru.574 la Midland che è favoloso, c'ho il Pony 23 canali, ti ricordi, sempre 220, o l'Inuit 23 canali, 220, il Midland è 40 canali, 40 canali con le bande laterali più complete, ho il Pace 2008, il 2008 base, tutti base ce li ho io, tutti base, capito, un base ti devi prendere a 220, transistorizzato come ha detto Gianni, no, non valvolare, no. Perché io mi ricordo che qui mi ricordo non c'è problema, con questa parete qua non c'è problema. Ma c'è un casino, non c'è un problema di 7, di 8, non mi sta parlando di una volta di una signora d'altro, ma non è un casino. Sempre stato a valvolare per questo. Ma tu a casa sei blu adesso? No, adesso sono in studio, non sono verso il tempo. Ah, cazza gappa. O che non ti prendono per guardone adesso? Sì, no, sono in studio, non sono io adesso, no. Perché? Sì, sì, sì, ho capito cosa sta dicendo, l'ho già fatto. Come c'è dal paretto che c'è colpito, che c'è il giorno, come è già? No, lì non sono mai entrato, però quella strada l'ho già fatta. L'ho già fatta due o tre volte, dai. Quando siamo andati a Osilo a fare Balduria dalla casa di un'amica che c'è la campagna lì dove c'è la strada nuova. Sì. Io sono stato in zona per informarmi, Tu Bruno di radio come mi ascolti con questo apparecchio? No, beh, la radio è tutto, va bene, guarda adesso, si sente l'eco? Ma l'eco può anche studiare, cioè si sente più forte, però con l'eco dà un pochettino di forza, di poca residenza. Ho capito. E vabbè, questa è una radio a battaglia, la uso così ogni tanto, di riserva, dai, ciao. Fai girare già. Avanti, Massimiliano. Appena girato, appena appena, aspetta. guarda un po'. Hola. Cambio. Oh, aspetta. Ora, 1, 2, 3, prova. Guarda un po'. Conoscelo così che va bene. Le dà quel senso di preamplificazione leggera, dai. Cazzo, già. No, forse è troppo, aspetta. Ora, 1, 2, 3, ora. Guarda un po' già, così bene va. K, sì, così è regolato bene, non ha né fastidio né nulla. K, me dai, già, va bene, dai. E questo è quel microfono là che ti ho mandato la foto, là, quella faglietta. Esce bene, dai. Sì, esce bene, quelli sono quelli che si usano anche nei modificati, eccetera. Ma quello che attacchi c'ha, del Galaxy, quello è apparecchio. Sì, Galaxy. Cavagare. Cos'è quello, il Cobra, Massimiliano? Eia, questo è Cobra. C'è il bip inserito e la bassa potenza, no? Ehi, già bassa potenza lì deve essere 9,20. Con la potenza alta vai a 9,30. Quanti watt ti sta dando? Così da 5 watt di bianco e una sessantina modulata con la bassa potenza. Figura dei due. Canti un K. Ma poi che andassi alla potenza ne avete 120. Più o meno siamo lì, dai. Con una trentina di watt di portata bianca. E già lo so. Già lo conosco bene con la radio. Avanti, Franco, ci sei? No, Bru, riprendi, dai. No, ma quelle lì sono per casa, la lasci fissa, hai potenza, quindi anche se metti, per dire, una boomerang, la metti a 20 watt, 15 watt, fai dei bei QSO, non solo a Sassari ma anche fuori, dipende da dove monti l'antenna. E poi non ti piace, ma non c'è nessuno in 27, giri e vai a ascoltarti le HF. Sono belle per quelle perché fanno anche da ricevitore, eccetera. Quando vuoi facci un pensierino, io di quella ne avevo due, una l'ho già venduta e adesso mi venderò anche l'altra, ne tengo solo una, perché intanto ormai c'ho questa e per me, per modulare 27 va più che bene questa. Avanti Massimi. Brecco. Avanti Brecco. Buonasera a tutti, buonasera Antonio da questa parte. Ciao Bombolino, ben sentito. Scappa, ciao a tutti e ben sentiti tutti. Ciao Antonio, buonasera. Buonasera, chi sei? Massimiliano. Perché non mi ascolti? Ambiolo. Sì che ti ascolto, già ti ascolto Massimiliano. ogni tanto bisogna scattare a bulo. Ciao Bombolì, buonasera, ben ascoltato, gappa gappa, va bene, cazzo mai fatto gioco ma ci vediamo, madonna santa, avanti Gianni. Allora Bombolì, bagnato? No, sto aspettando la pizza, tanto non veniva oggi, chi la fogliano a tutti i canti, ti la fogliano, ti dico io, vabbè, e quindi sto aspettando la pizza per non imbruttare niente. Paga, non perdere il vizio, va. E dunque niente tortellini con la panna. Oggi niente tortellini con la panna. Oggi pizza. Sì, il tortellino con la panna, li ho fatti. Quando li ho fatti? Domenica. Oggi pizza. E a volte tortellini con la panna, pasta al forno, di tutto in occhi. Gigioni, di tutto, di tutto e di più. Se voi si interessate c'è l'appetito e la salute. Avanti, Claudio. Massimiliano, dimmi, mi prendi là. Aspetta, mi stanno citofonando al telefono, aspetta. Ciappa di Rogero, dai, va bene che va bene. Che ore sono? Le 8 quasi meno 10, non può ci tocca il cane già. Io l'ho già portato, io l'ho già portato qui, ma perché stava pugnando, pensavo che avesse mal di pancia, roba del genere, invece ha fatto un paio di pisciantine e basta. Non so se lo porterà l'aria, arrivate l'aria, infatti mi sono tanto un attimo, se non avete chiamato. Tu lo porti? Ok, lo porta mia figlia, mi è già pronto, guarda quando vede Edda, già non la vede tutta la lì. Salvate in curva chi siga. No, perché a lui le piace uscire, capito, con lei. Non è che lo porta sempre, lo vede anche poco. Sempre impegnata e poi vabbè, a casa Giulia, quindi. Adesso è rientrata. Cena qua, quindi Mario ancora lavoro, chissà ora esci, c'aveva 7 macchine oggi. Sapete che c'è il lavoro qua. Non va bene, solo che magari può rimandare a domani o no? Sì, quando è roba tua non puoi rimandare domani. No, già, lui se la rimanda domani, lui c'ha gli appuntamenti e quindi prende e deve consegnare. E sono giorni, chiude anche alle 8 e mezza, alle 9, 9 meno un quarto. Sì, meglio che ci sia da lavoro. Certo che quando è troppo. Ehi, Corarito, già è giovane. Già, quando è roba tua non te lo puoi permettere, dite no, non vando, non lo posso, devi farle e basta. Allora, tu, così è, quando sia conto tuo devi trabaccare. Non c'è niente da fare. No, lui già ne ha, grazie a Dio, lavoro, e poi non fa solo quello, già ti ho detto. Ci aveva l'altro giorno 3 macchine da fare i fari. Se lo vedi facendo i fari da asciutti. Ma ha dato la foto l'altro giorno, una macchina è entrata con questi fari gialli, non ci vedeva nulla, ma ha mandato la foto dopo, ha detto vai che gli hai messo i fari nuovi, ma la volta del cielo c'è un li ho fatti fare, li ho lucidati, capito, è molto bravo, fa un sacco di cose, fa anche un po' di meccanica, si arrangia tutto, capito, parte elettrica, tutto va. Avanti Bru. Perché dopo un po' di anni era un po' di... comunque io adesso faccio un cambio di applicazione, adesso la radio mi fa suspizione, ho trovato. No, caro Stia, no, mio genero è un bagista, però fa tutto, fa lui fare. Poi ci ho trovato l'attrezzatura, tutti i macchinari, le cose. Molto bravo. Si è fatto un fuoristrada, l'altra volta l'ho visto, quando è entrato, Gianni mio, una cosa allucinante. Sembrava una macchina di quelle agricole. Quando è uscita c'ero di nuovo io, e il padrone gli ha detto che non era possibile che era quella la macchina. Allucinante, proprio dentro, fuori, pannelli, sedili, mocchette, il cielo tutto lavato, pulito, asciugato, c'è cioè i macchinari che lavasciuga qua, e l'ha fatta nuova, nuova, nuova. KK, avanti, bombolina. K, Zapenta, Zapenta a falli, Zapenta. È giusto che sia così. E se ti appenti chi si cosa ti va, luci di luci, sai come ti vale, torna a nuovo, me l'hanno detto, me l'hanno come si fanno, un pochino, ma io non è che ne ho mai fatto la verità. No, a lui anche i carrozzieri gli erano per fare bravissimo, no? Perché sia lui, ma. Ma quel fuoristrada è costato 120 euro, mi lo sa bene, si è buttato 20 euro. 120 euro, poi c'è il patentino per il lavaggio dei motori anche, ti stacca tutte le centraline, tutti i cavi, tutte le cose, poi lava, c'è un prodotto, è il suo lavoro, è una vita che fa quel lavoro, capito? È una vita. C'ha l'età tua, mi Mario, 36 ne hai tu anche. Capa, 36 anni c'ho. No, Mario ne ha 40, no, non ne ha 36. Però è una vita che fa quel lavoro, è molto bravo. Le danno quanti? 15 anni che lo fa. Quindi 15 anni fa il suo travaglio, perciò le danno un sacco di macchine, anche le concessionarie. C'è un bel lavoro, non si può lamentare, grazie a Dio non si può lamentare. Saluta Antonio, vedà. Ciao, Anto! Anto! Ma la bici è arrivata. No. Antonio è strampato dal suo parco. Oh, ciao Ilaria, scusami, ho toccato una cosa che non dovevo toccare. Prima e dopo di ehi, ehi, ehi. Vabbè, mandamelo poi, lo faccio vedere a Gianni. Ti faccio vedere un prima e dopo di fare già, tassucchi, una cosa allucinante. Infatti ho detto, mica mi rivalzetti all'alfa, mi sì, sì. Ma so se mi rispondo ogni volta, senza soldi non faccio niente. Chi paga? Chi paga, mi dice. Ilaria paga, non ti basta che su questi razzi. Dove ti buoni d'accordo? Si paga da te li vado. Ah, è un figlio di merenenne, come ti dici alla vana, ma dei galoppini, carottizzano. Sei un merenenne. A me non mi va di nulla, amico, già pesci. A me prende sempre per il culo. Ma dico, ma io lì qui che c'è. Sì. E chi paga? E chi paga? No, nessuno. Ti porta la macchina e me la lavi. Cioè me la fa dopo, ma mi bida sempre il baruguru, capito? Vabbè. Signori, io momentaneamente vi abbandono, non so se Massimiliano c'è di nuovo, se si è allontanato, rilancio a lui e rimango un attimo in ascolto che devo andare a organizzare la cucina, visto che Ilaria sta portando il cane. Ok, Massimi, ci sei? No, Gianni, riprendi tu e fai girare, dai. Ehi, a chi ci è rimasto? Antonio? Antonio ci è rimasto, mi pare, guarda, salutissimo. No, c'è anche Bruno, c'è, aspetta un attimo che faccio una cosa. Allora, avanti Bruno. Ehi, a capa, salutone. Ciao Bru, tante cosce belle alle broscimine, dai, ci sentiamo. Anto, guarda il segnale che avevo sistemato i vatti del Galaxy, com'è il segnale, buono? A voglia che è buono, cra. A voglia, sì, 9, oltre 9.30, sì. Ecco qua. Allora, sentiamo un po' pochino. Finalmente ti sentiamo col bippi. Va bene, va bene. Anche da te c'è il segnale buono? Ce l'hai l'occhio sul Galaxy? Galaxy? Com'è? stavo scrivendo un messaggio. Ancora non l'hai mollata. Sei mollato 10 minuti fa, torna messaggendi. Lasciala stare un po', santa pace questa donna. Guarda a vedere il segnale com'è. Ti ho parlato di chiudere 9:30. Buono, buono. Chi è Santiago? Aspetta, silenzio. Ma io come sto arrivando col baracchino? Aspetta, aspetta, 9:20, sì. Chi è che ha detto Santiago? Santiago del C***o. Ah, chi sei, Daniel? Oh, Lima, ciao, Alzieri. Buonasera, ben ascoltato. Lima 1, Alzieri. Bene, bene. Già va bene anche così, dai. Pochi watt. Pochi watt. Tu sei Santiago 4, Radio 5. Ciao, Lima 1. Buonasera, ben sentito. Lo sentite, Alzieri? Gianni, lo senti, Alzieri? No, non l'ho sentito per niente. Avanti, Alzieri, se mi ascolti. L'hai sentito, Gianni, Lima? Io non l'ho sentito. Aspetta. Ciao Lima, dai, ciao, grazie per essere entrato per salutare. Non ti sentono nella bassa valle qua di Sassari. Ti ascolto solo io, grazie per il segnale. No, la radio non è quella grande che sai tu, questo è un santo mecco, però mi hanno detto che sembra abbastanza professionale, sono contento. L'abbinamento Tunnel più 3 ha fatto il suo coso, va bene, ottimo. Ciao di nuovo, tanti saluti, cordialità, e ti saluta anche Gianni Doppio Rum, Antonio Bombolo da Sassari, ok? Avanti già. Sì, tanto non mi sente, salutoni amico. Che vabbè, io lo sto aspettando il tanto, vediamo quando arriva, dovrò ristrutturarlo perché tanto un pochettino le calpestare si è scheggiato un pochettino, lo devo ristrutturare, lo faccio con l'altro con resina e poi lo riverisco tutto. Vabbè, vettorresina devi sapere la manovra, vettorresina, sta attento non fa più a brutto. Lì ti conviene, se ce ne manca un pezzo, togli la capsula, tutto, dall'interno le metti un lamierino e poi lo stucchi bene, lo fai. Non ti conviene usare la resina, già fai troppo casino. Stucco a ferro, quello le dai una bella passata di stucco a ferro, lo fai asciugare bene, poi lo carteggi bene, lo arrotondi bene e devi fare un bel lavoro. No, questo è tornato la foto, nuovo. Vabbè, non l'ho già pagato 40 euro, ho pagato 70 euro più 10 di spedizione, 80 euro, quindi, però nuovo, originale, c'ho anche la scatola, se ti interessa, originale, anche la capsula, perché è marcata Turner, sono andato veramente di lusso, è difficile che arrivino così i microfoni, però va bene, nuovo, e tra l'altro, la fortuna già che il connettore era già a 4, l'ho inserito e va bene per il Galaxy, quindi chissà dove cavolo ce l'aveva, su che radio ce l'aveva. Vabbè, questo qua, no, la resina già l'ho usata già altre volte col catalizzatore e ho fatto anche macchine con la resina, infatti un po'. Quando c'era la 500 c'era buttata appunto dove c'è il finestrino di dietro. E l'ho fatto tutto quanto a rigida, l'ho tappato tutto a rigida, l'ho fatto bene, il busso liscio e poi passato la vernice da bombole. Vabbè, ma quando si impiana così qua devi fare un bel lavoro perché se no si vede, amica. Devi proprio appintarti bene, se no si vede, poi è brutto, capito? Vabbè, guarda adesso quando arriva, l'importante è che non è quello il problema, perché al limite lo dai a un carrozziere, è ferro e te lo fa. Capito? L'importante è che abbia la capsula originale e il circuito, che funzioni bene il microfono, poi c'è la biglia e luci, già si può mettere a posto. Luca Flipper li fa queste cose, ad esempio, se lo fa nuovo per dire. Va bene, dai ragazzi, io mi stavo allontanando, quindi il mio allontanamento dalla radio, vado ai fornelli, perché poi alle 8:30 c'è la partita e mi voglio guardare la partita, poi arriva chissà se ho gabbo di bugnetta, perciò devo essere pronto, deve essere tutto pronto, dai. Ok, ciao Antonio, ciao a Bruno di nuovo, a te Gianni, Massimiliano e tutti quelli che sono all'ascolto, dai. Vi saluto, compreso anche Ozieri, ciao Lima, salutami a Giovanni. A te Bruno, ascolto il finale, poi chiudo, ci sentiamo più tardi, ciao ciao. Ok, sono arrivato a casa, ciao a tutti, ci sentiamo, ciao Gianni. Ciao, ciao, ci sentiamo, buona serata e buona carica, come va a fare? Salutoni Bruno, salutoni. Non c'è bisogno di gridare altro che se arrivi bene lo stesso, anche se non gridi. Gappa gappa, com'è? Com'è? Come la sentite questa cosa? Ciao Gianni, dai vi saluto e chiudo. Vi ho ascoltato 5 minuti e adesso scendo a c***o. Ciao, ciao a tutti. Ciao Giulio, ciao. Carica. Ciao, ci sentiamo. Ciao Giulio. Ciao Giulio, ciao. Forza Juve. Ciao, ciao Claudio, ciao Bruno, Gianni, Antonio. Insomma, vi ho ascoltato 5 minuti. Sto usando un HB23. Va bene, ci sentiamo. A risentirci, riprendi pure Gianni. Gappa gappa, salutone Giulio, buonasera. Tu già le diciamo. Gappa, come esce questa roba? Come arrivo io? Ha già chiuso Giulio. Gappa Gianni, ma mi senti male con questa roba? No, ti sento bene, non male. Ti sento benissimo. 9.30 sì. Gappa, sto utilizzando quella marama là, l'ho voluto riutilizzare. E con che microfono? No, l'ambarabà, l'ho l'amplificatore, 1300. Ah, no, sto scendendo bene adesso, perché cosa gli hai fatto? Ah, l'ho controllato un po', gli ho aumentato la potenza e mi sembra che stia andando bene, non satura, no? No. Cappa, sono in sesta marcia, sono già. Com'è? In sesta? Sì, in sesta marcia sono. È abbastanza buona, dai. Ma abbastanza buona, comprensibile. E così com'è? Va bene? Sì, così va bene. Gappa gappa, va. Sembra che stia funzionando. Quei batti più aumentati, aspetta un attimo, con un pochettino più di batti gli ho dato, com'è? Già è comprensibile, va benissimo, va. Conforme a come andava prima. Gappa, ma non so cosa cavolo, ho provato a toccare. Sta trattando. Si rintoccerà. No, qualcuno ti ha parato sopra. Stai strappando? Sto strappando, vero? Incomprensibile. Aspetta un attimo. No, sto... perché arrivo un bel forte. Aspetta. Ciao Gianni. Oui, ciao. Guarda bene se va meglio così. Così va bene. Ciao Fabio. Oui, allora. Così sei perfetto. Gappa gappa. Aiutami. Adesso l'ho spento, lo faccio fatto andare un po' caretto che l'avremmo. Oggi già va bene. Un attimino che cambio radio. M1 non è in mano, ho appena finito di ripararlo di questi amplificatori. Il B550. Adesso qua è il 300. Questo forse è più grosso, non lo so. Il B550 è della ZG. È più grosso, sì. A me quelli della ZG non mi sono mai piaciuti perché di solito escono saturi. Già. Troppo. Aspetta che cambio radio, 2 secondi. Questo qua l'ho fatto andare e facciamo un radio. Fabio, adesso sto usando quella mano che mi ha dato tutto. Gli ho messo il tasto, eccetera. I fili interni, così sono liberi quelli di fuori. E praticamente sto usando quello. Come sta andando? Sta andando bene, ma proprio quello che costano quelli che hanno 50 amperi sono, magari non sono anche effettivi, ma cosa vuoi di più, voglio dire, capito? Cioè, fai che siano 40 effettivi, 45, non li ho mai misurati, però voglio dire, per quello che costano, vanno benissimo. Io qui ce ne ho parecchi collegati, quelli visto ne avevo uno scatolone in pieno, ne ho dato un po' a tutti, me ne sono rimasti 2 da 50, 2 ce li avevo già, ne avrò 5 o 6 qua in stazione, 7, 8, lì, perché servono sempre, perché ogni tanto quando parto non ne metto uno e me ne riparo un altro. Ecco qua, arrivato. Mi ha detto che me voleva uno da 50 amperi, a tu? Sì, dimmi. Sì, se proprio se ce l'hai più te lo dà. Quanto è? Da 50 amperi, 20 euro. È buono. Appena che... cioè, me lo prendo, ok? Non so se te lo può dare, io sto dicendo, non lo so se ne... Sì, non lo so, me lo puoi dare, Fabri. E quelli da 50... Non credo. Devo guardare, non so nemmeno cosa c'ho. Devo un po', ma devo fare un progetto. Li ho presi perché devo fare un progetto, alcuni li tengo di scorta. Da poco li ho ordinati, infatti ho chiesto a chi l'ha italiano, ho detto chiedi chi li vuole, li ordino e glieli do. E faccio un unico viaggio. Infatti Gianni già li ha visti, è stato il primo, aveva una scatola piena. Perché un po' già, due Gianni me ne ha chiesto, poi quattro Walter, l'altro e gli altri me li ho presi io, capito? Me li ho tenuti io gli altri. Scappa, sciola, mazza, 9,40 sì, no, Gami, oltre 9,40. E andava, mi. E poi anche il fatto che noi quelli lì, li usiamo, perché li mettiamo nei conti, e alla fine tu considera che quello, rimangono 24 ore su 24 accesi questi defunti. Sì, ogni tanto qualcuno può anche partire, ma tu per quello che costa li metti lì e poi si ingenera partono i MOSFET, che costa, se ti prendi la fusaro costano più se ti fidi dell'apparecchio. Ne va a avere un po', ma adesso devo guardare lì 209, li devo riordinare, li avevo fatti arrivare da fuori, da Cina mi sembra, ma almeno li paghi poco e ne vale la pena riparare, se non la riparazione non ne vale la pena il componente, costa più il componente della macchina. Sì, è vero. Allora io ce l'ho a 30 amperi come ce l'hai tu e funziona che una gannunata, eh. Ah no, bene, io ce l'avevo sempre da 30 amperi, prima da 20, poi hanno aumentato da 30 amperi, adesso ne ho anche da 20 amperi in soffitta, ma adesso sto prendendo questi da 50 amperi, tanto costano 5 euro in più, capito, degli altri, quindi alla fine conviene prenderli, un po' di roba in più. Ma, per esempio, vedi, adesso io avevo attaccato, stavo provando questo linearetto, volevo solo vedere se usciva, perché un ramo andava bene, questo c'ha quattro finali, un ramo andava, sono accoppiati 2 a 2, un ramo andava bene, l'altro aveva problemi e quindi li stavo facendo le prove. Una volta chiuso, ho usato questi della Nissi, mi sembra, che sono circa da 28 amperi, 28-30 amperi sono, si sedeva, allora attaccato con quello che c'è su 50 e ha iniziato a erogare il watt. Io credo che per questi qua ci vuole almeno 50 amperi minimo di quelli lì, con quello dovrebbe iniziare a erogare oltre i 200-250. Se no si bosa, non anda bene, no. No, non vanno bene, si siede. Oh, manco 50 avevo, manco 50 ampere. Capa, come ti arrivo io lì? 9,30 con punte. Quasi 40. Eia. Eia, va bene, dai. Anche qua c'è il segnale più forte che c'ho. Sì, io bene o male già arrivo un po' bene da tutte le parti, la posizione è buona, poi l'antenna ce l'ho sul traliccio, quindi non va bene in giro, anche a Gianni credo che gli stia arrivando bene. Sì, mi arrivi benissimo. Io quanto ti arrivo? Vai già. 1, 2, 3, 4, 5. Più o meno il segnale di bombolo è. Solo che per me, sono molto favorevole, capito? Per te. Perché io quella zona ce l'ho libera, dove abiti tu, tutta quella zona io ce l'ho favorevole. E il bombolo c'è un sacco di picchi, fa 10 dB di picchi positivi. E già va bene. Che radio stai usando? Cosa? 87. Eccolo, va bene. Vedi, il bombo è da 9,30 va a 9,40, invece Gianni è come attaccato, se è a 9,20 fisso. Che ma bombo si è attaccato però? Ma è attaccato, cosa attacchi in oggi? Sto chiedendo. Ma non attacco uno di cosa in oggi? Non è attacco, sì, da poco fa ce l'ho vivi, lo si dice. Sì, ma no, non serve, non l'ho staccato a chi non mi piace, capito? Ho staccato tutto. Davvero? Davvero. Sono qua, mio, chiuso appena adesso, ho il telefono con un amico, e sono qua, voglio qua. Metto, facciamo un lavorettino al volo qua. Kappa, ho staccato tutto, cioè non mi piazia, l'ho staccato, c'è qualche problema con la roba lì. Ma cos'hai ancora, si può sapere? Quello che hai visto, quel dettaggino, non giugano. Eppure me lo devi dare, lo voglio provare qua io. Proviamolo, non c'è problema. Me lo dai, un giorno lo proviamo qua, vediamo un po'. Proviamolo, vedi un po'. Grazie, io ho fatto male, l'ho provato la sua lì. Kappa, Fa fianco di fava che c'ho gozzo. Antonio, Antonio, non cambia mai. Per ridere, dai, un pochettino. Sì, non c'è problema. Sei sempre simpatico. Avanti, Fabi. No, sono qua, mi stavo dando un'occhiata a due cosucce. Ascolta, ma io com'è? L'hai troppo alta la radio? Oh, c'è una bomba, andate. Ah, facciamo così, dai. È un po' che non la... Perché io c'ho l'altra radio, devo accendere un po' di radio. Quando ho tempo ci provo, va. Devo... Se sono fermo da parecchio. Cappa, io mi... l'ho accesa poco fa, l'87, per farla... già acceso l'87 adesso. Ho acceso... l'altro, come cavolo si chiama, il 550, adesso mi manca l'altro che lo devo collegare perché l'ho scollegato. E ogni tanto bisogna farla attendì, dai. Sì, andavo, ciao Fabio, buonasera. Oh, ciao, allora, tutto a posto? Sì, tutto a posto. E tu, com'è? Com'è, lavorando come un nego ultimamente. Lavoro in più, stiamo rimettendo a posto... gli impianti, almeno i tralicci, la parte, lo sai che ho in garage, la parte è mi sta chiamando mia moglie, detto che ha fatto macello, andiamo a vedere. Va bene, ok, allora, sentiamo dopo se già siamo qua, vai già. Attimo che sono a tre. Andiamo, vai, bombola. Ehi, cappa mia, ci tendi la pizza, che... Allora quando arrivi mi dici da capo. Che cosa? Così, allora come ne arriva un'altra, dico che non era buona. Così è. E così si fa qua. Scherzando, vuoi se faccio una fammi c'è gira, crocro. Ti un attimino che cambio la radio, e sto provando questo microfono, una volta usciva, una volta non. Cosa mai sul microfono? Guarda un po', tu. Sì, già sta uscendo già. Cappa, che microfono è? Un Lafayette di quelli tipo CTE, dai. Magari c'ha qualche filo dentro, tocca, non tocca, buh. Cappa, non lo so. Mira, bizzami. Massimiliano, ti devo salutare, ci sentiamo dopo. Va bene, ok, ciao tu, buona cena. C'è rimasto più nessuno qua? Sì, sono io, Massimiliano. Ah, perché non mi hai detto io al telefono? No, stavo mandando un messaggio. Stavo guardando il messaggio, stavo rispondendo. Ah, è vero che a te ti mandano il messaggio all'ultimo, lui dice all'ondi 3 minuti. No, veramente alle 10 di notte mi fa la videochiamata. Ecco. Va bene, ok. Questo va bene. C'era magari qualche filo... tocca o non tocca qua, mi capito già, a volte usciva, a volte no. L'ho aperto, gli ho girato appena il cavo e l'ho richiuso. Che bene, ma non è normale che ti faccia questa cosa, controllatelo bene. Adesso già l'ho controllato bene, adesso già sto uscendo, l'ho visto. Cappagamma, è dato una tossina da rubino, ma vuole visto se è interrotto magari. Già vanno una giugana, devo essere sincero. Sì, sto aspettando che finiscano di studiare mia figlia, che sono giù, e poi andiamo a cenare. Com'è il segnale lì, già? Prova! Guarda un po', 1, 2, 3. 9:25. Ok, invece è così, già? 1, 2, 3, 4. 9:30. Buono, dai. Va bene. Così al massimo era. Allora, così era al massimo, sì. Così al massimo. E così è al minimo. E già si sente che lo stacco. Il pulsantino c'ha, no? Il pulsantino dove c'è scritto power. Lo pigi verso dentro e fa l'alta potenza. Lo togli fuori ed è bassa potenza, no? Gappa brioscia, gappa, va bene. Uff, che devo andare a mangiare, ma non aggiungare i bisogni, sono sdraiato, sto così bene. E adesso noi saremo agli sgoccioli, là. Saremo tutti agli sgoccioli, a mangiare. È già ora. e anche più che orario. Mi sa che adesso vado e comincio a cucinare, se no ne manco a domani mangiamo. No, vabbè, noi no, non è che abbiamo un orario alle 8 fisso, noi in genere mangiamo sempre 8 e mezza, 9, capito, sempre quell'orario più o meno.